Mamma drone, che è? Mamma drone, dov'è? Mamma drone, che fa? Mamma drone, che dice? Ogni giovedì dalle 12 alle 13. Mamma drone. Musica, parole, racconti, favole. Buongiorno a tutti e tutte, la nuova puntata di Mamma Drona, come ogni giovedì dalle 12 alle 13, iniziamo con un po' di minuti di ritardo e la puntata di oggi è dedicata ai giorni della settimana. Tantissime canzoni sono state dedicate appunto ai giorni della settimana, ovviamente ognuna con una storia differente. Iniziamo con un lunedì, con la canzone dei Bonhomme Rats, il gruppo di Bob Geldof, che nel 1979 scrive e pubblica una canzone che si chiama I Don't Like Mondays, non mi piace sono il lunedì. Nel 1979 Bob Geldof sente la notizia di una sedicenne di San Diego, Brenda Spencer, che si è resa protagonista di una sparatoria nella scuola di fronte a casa sua, uccidendo due persone e ferendone altre nove. Alla domanda perché avesse fatto questo gesto, le risponde I don't like Mondays, ovvero non mi piacciono i lunedì. Questa frase ispira il cantante dei Bonhomme Rats e che scrive appunto questa canzone. Nel marzo del 1980 i genitori di Brenda Spencer cercano di bandire la canzone. E molte radio anche non la trasmettono, però in verità ha avuto un successo che dura da più di 30 anni e appunto ce l'andiamo ad ascoltare. I Don't Like Mondays, Bonhomme Rats. Gonna go to school today. She's gonna make them stay at home. Daddy doesn't understand it. He always said she was good as gold.

Volevo proporre una canzone dei New Order, che sono stati una band inglese formata nel 1980 in seguito allo scioglimento del loro gruppo precedente Joy Division dopo il suicidio del cantante Ian Curtis. Ora noi proponiamo la loro hit del 1983, che ha abbracciato insieme a questo singolo un nuovo corso stilistico, perché c'è stato appunto un nuovo stile con sintetizzatori e batterie elettroniche, ed è uno dei vinili da 12 pollici più venduto della storia. Ora quindi passiamo a Blue Monday dei New Order. Fisher Spooner che cantano Wednesday. allora passiamo ai Sonic Youth, una canzone Someday che è presa dal loro album del 98, scusate, A Thousand Leaves. Giorno ancora, parliamo del sabato con una canzone di Cat Stevens dei primi anni 70 che è Another Saturday Night. Cat Stevens, cantante folk inglese che all'inizio della sua carriera, fine anni 60, ha avuto delle sonorità più pop, dagli anni 70 in poi ritorna sulla scena con capelli lunghi, barba e con delle canzoni che hanno passato la storia come My Lady da Bonville, con delle appunto delle sonorità greche date dalle sue origini, o Father and Son, Wild World. E nel 1977, dopo aver rischiato di morire annegato a Malibu, si converte all'Islam e diventa Yusuf Islam. Infatti adesso è conosciuto con quest'altro nome. Importante, diciamo, nella sua carriera è anche appunto la capacità che ha avuto di unire sia le parole, la musica, ma la spiritualità, che è un elemento fondamentale delle sue liriche. Allora andiamoci ad ascoltare Another Saturday Night, Cat Stevens, o comunemente detto anche Gatto Stefano. Certo. Thank you. on a fella when he don't know his way around. If I don't find me a honey to help me spend my money, I'm gonna have to blow this town. Oh no, another Saturday night, and I ain't got nobody. I got some money, cause I just got paid. Now how I wish I had someone to talk to. I'm in an awful way. Another Saturday night, and I ain't got nobody. I got some money, cause I just got paid. How I wish I had someone to talk to. I'm in an awful way. I'm in an awful way. He's in an awful way. I'm in an awful way. I'm in an awful way. He's in an awful way. E allora adesso invece ascoltiamo un'altra canzone, parla del martedì, si chiama Two Days Gone ed è un gruppo, si chiama Metallica, che ha fatto questo CD cover con tutte, che si chiama Garage Inc. E questa è una ballata appunto che ci piace molto, ce l'ascoltiamo un pezzettino, perché un pochino, perché dura 9 minuti. E ci garba parecchio. E ci garba un monte. Vabbè, questo era proprio un assaggino di Tuesday Gone, perché sennò le troppe canzoni che vogliamo farvi ascoltare non riusciamo a farle entrare tutte. E adesso passiamo a Sunday Bloody Sunday, la domenica di sangue, un testo del 1982 scritto da Bono e da U2, dedicato appunto a una domenica di sangue del 1972, quando nella città di Derry, la città nordirlandese, l'esercito del Regno Unito sparò sui partecipanti di una manifestazione. 14 persone, civili disarmati, vengono uccise, e l'episodio passa proprio alla storia con questo nome, la domenica di sangue, Bloody Sunday. Scatenò la rivolta ovviamente contro il governo di Londra, e diciamo nel 2002, con un film che è dedicato appunto a questa giornata, come colonna sonora c'è un live di Sunday Bloody Sunday, che fa parte del CD del 1982 dal nome War. Ce l'andiamo a ascoltare, Sunday Bloody Sunday U2. Listen. adesso andiamo a sentire Wednesday dei Tori Amos e a seguire ancora È solo lunedì dei Verdena, un'altra canzone quindi sul primo giorno della settimana che, come sappiamo, insomma, costituisce un problema per molte e molti. Just a hang-up call and the quiet breathing of our Persian we call Cajun on a Wednesday. So we go from here to here with cigarettes we've been keeping, though you say you're not a temper man. Seems as if we're circling for very different reasons, but one day the eagle has to land. Just a ghost, perhaps a phantom, I agree with this in part. Something is with us, I can't put my finger on a Thumbelina's eyes turn on a Wednesday. So we go from here to here with cigarettes we've been keeping, though you say you're not a temperament. You tell me to cheer up and suspect we're oddly even. Even still, the eagle has to land. I'll pass the fountain. Hey. Solo lunedì dei Verdena, canzone che fa parte dell'ultimo album, che è un album completamente positivo e che cambia volto a questo gruppo che ha iniziato con proprio da età, in età giovanissima e molto tormentata, mentre invece questo disco ha delle sonorità piene e che riescono veramente a dare un senso positivo. Probabilmente gli animi tormentati si sono acuiti con il tempo. E ora ritorniamo qui per presentare David Bowie, che ci ha chiamato anche, qualche secondo fa ci ha chiamato il Duca Bianco per dire per forza dovete mettere una delle canzoni, ne ho fatte addirittura quattro sui giorni della settimana, Friday on my mind, Love You Till Tuesday, Sunday, e noi faremo sentire invece Thursday's Child, sempre di David Bowie, per forza è voluto intervenire qui in questa trasmissione. Lo ringraziamo moltissimo per la discografia che ci offre tutti i giovedì. Grazie mille, Ziggy, Ed ecco Thursday Child. All of my life I tried so hard, doing my best with what scusate per le interferenze, era direttamente il Duca Bianco che è qui tra noi che tossiva. Ora passiamo a Manic Monday delle Bengals. Passiamo a un film che prima è stata una serie. Sto parlando della famiglia Adams, dove c'è una simpaticissima personaggia che è mercoledì, e che veste sempre con un vestito nero e con collo bianco, è sempre seria nel film e anche nella serie. Era una normale bambina dai gusti strambi, con la passione per il ballo. E poi appunto nel film invece trova modi per torturare suo fratello e ha sempre un modo particolare per uccidere le persone. Ora a lei dedichiamo la sigla della famiglia Adams e eccola a voi. E adesso dedichiamo una canzone a tutte e tutti quelli che hanno la febbre del sabato sera. Staying Alive, cantata dagli Hormonauts. Well, you can tell by the way I use my walk, I'm a woman's man, no time to talk. Music loud and women warm, I've been kicked around since I was born. And it's alright, and it's okay, you may look the other way. We can try to understand, I knew your time's effect on man. Whether you're a brother or whether you're a mother, you're staying alive, feel the city breaking on everybody shaking, they're staying alive, ha! Staying alive, ha! Staying alive. All right. Well, I get low and I get high, and if I can't get either, hell, I really try. I got the wings of heaven on my shoes. I'm a dancing man and I just can't lose, and it's all right. It's okay. I'll live to see another day. We can try to understand. And you, your time's effect on man. Yeah, whether you're a brother or whether you're a mother, you're staying alive, feel the city breaking on everybody shaking, you're staying alive, ha! Staying alive, staying alive, ha! Life's going nowhere, somebody help me, yeah. Come dimenticare anche i detti sui giorni della settimana, ad esempio sai come il mercoledì? Oppure sei la domenica del Vadale. Ma anche la Pasqua quando arriva arriva. Oppure una rondine non fa venerdì. Insomma, la puntata di Mamma Trona di oggi volge quasi al termine e vi auguriamo una bella settimana piena di giorni. Vi abbiamo fatto sentire una canzone per ogni giorno, quindi state tranquilli e tranquille e vi aspettiamo giovedì prossimo, come al solito, dal mezzogiorno alle 13. E ci lasciamo con Sunday Morning dei Velvet Underground. It's just a restless feeling by my side. Early dawning, Sunday morning.